9 in punto. Di nuovo buongiorno cari ascoltatori da Simone Spezia. Come si diceva questa mattina, ci prendiamo almeno parzialmente respiro da questa campagna elettorale fatta di, come avete sentito, molte promesse che continuano ad accavallarsi in questa giornata, che è l'ultima giornata tra l'altro per i sondaggi, per quel che valgono, a 2 settimane dal voto. E però restiamo in tema di politica, in questo caso di politica estera, un tema quasi completamente assente da questa campagna elettorale. Se ne parla pochissimo, fatto salvo qualche riferimento all'intervento francese in Mali e al supporto logistico da parte dell'Italia, ma insomma, a parte questo si è detto veramente poco. Nel frattempo, a poche miglia marine da noi, le difficoltà sono, come sapete, notevoli. È stato ucciso 2 giorni fa, assassinato per essere precisi, in un vero e proprio agguato, il leader dell'opposizione tunisina, Chokri Belaid. Oggi si svolgono i funerali in un clima prevedibilmente di forte tensione che continua ad esserci. Dunque, la prima persona con la quale ne parliamo è una persona che si trova là, che si trova a Tunisi, ed è l'inviato del Sole 24 Ore, Alberto Negri. Alberto, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Saluto anche Suad Sbai, presidente dell'Associazione Donne Marocchine in Italia, ex deputata del PDL, ha scritto tra l'altro un libro, Il sogno infranto, la nuova primavera araba e le ombre di Algeri. Più avanti avremo anche altri ospiti collegati alla politica, proprio per discutere di questo e per discutere di come l'Italia può affrontare tutto questo. Alberto, la prima cosa, molto semplicemente, è un aggiornamento sulla situazione e le aspettative per questa giornata di oggi. Bene, in questo momento io sono nel cuore di Tunisi, in Avenue Bourguiba. La situazione è tranquilla, sta piovendo, probabilmente anche questo contribuisce in qualche modo a non trascinare la gente in strada, anche perché le grandi manifestazioni sono attese tra qualche ora, quando cominceranno i funerali di Belaid, e tra l'altro oggi c'è anche lo sciopero generale in un giorno che è pure quello del venerdì della preghiera. Sono state comunque rafforzate tutte le barriere lungo il centro di Tunisi, rafforzate le protezioni col filo spinato intorno soprattutto al Ministero degli Interni. Una notazione importante: oggi questo funerale di Belaid è stato organizzato, verrà in qualche modo sorvegliato dai militari. Questo potrebbe essere una garanzia per evitare scontri. Tra l'altro, l'opposizione, il fronte popolare di opposizione, ha lanciato appelli alla calma per tentare, insomma, di frenare le manifestazioni più violente. Alberto, già l'hashtag 9 in punto ci stanno scrivendo gli ascoltatori su Twitter, perché il tema che vogliamo affrontare oggi, partendo dal caso tunisino, ma è un tema un po' più ampio, è che cosa si lasciano dietro, e capisco che probabilmente un'ora non basterà, che cosa si lasciano dietro queste primavere arabe che alcuni hanno già chiamato inverno islamico, che in Iran tutto questo movimento, correggimi se sbaglio Alberto, viene definito risveglio islamico, cioè le famose primavere arabe vengono definite risveglio islamico, quindi una lettura completamente diversa. Effettivamente qualche preoccupazione da questo lato si è venuto a creare negli ultimi giorni. Abbiamo visto quello che è successo in Egitto, abbiamo visto quello che è avvenuto in Libia, a Bengasi, abbiamo visto, anche se naturalmente la situazione è diversa, no? Perché l'Algeria da quel punto di vista non è stata coinvolta, però che cosa è successo in Algeria con l'assalto di Al-Qaeda, più probabilmente correlato alle vicende del Mali. Assalto di Al-Qaeda nel quale però, lo ricordiamo, c'erano 7 tunisini dentro, insomma, quindi c'è qualcosa che si sta componendo là intorno, in tutta quell'area, che naturalmente desta preoccupazione. Io vi ricordo tra l'altro il numero per intervenire in diretta, 800 24 00 24 per intervenire e anche naturalmente per fare domande. Alberto, qual è la tua lettura, visto che poi hai seguito tutte queste vicende? Ma la mia lettura è quella che dovrebbe comprendere un'analisi che penso possa anche gettare un attimo nella disperazione di 30 anni di storia del Medio Oriente. Il risveglio islamico non è certamente cominciato oggi, a parte che ci fu la rivoluzione iraniana di Khomeini nel 79, ma i movimenti islamici in questi paesi sono stati fondati 30 anni fa. Ghannouchi qui in Tunisia fondò questo movimento negli anni 70, già negli anni 80 era un protagonista, per esempio nelle università il movimento di tendenza islamica, come poi si è visto che si è propagato in Algeria, in altre zone del Maghreb, poi in Egitto. I Fratelli Islamici hanno una storia lunga 70 anni, furono fondati da Alban negli anni 30. Insomma, il risveglio islamico non è cosa di oggi. Quello che c'è oggi è che questo Islam politico che dopo la caduta dei dittatori ha ereditato il fallimento di alcuni stati laici e secolaristi, un fallimento in alcuni casi che è stato determinato da motivi bellici, quello dell'Iraq, ha fatto le guerre, Saddam Hussein le ha perse tutte in qualche modo e poi si è trovato un paese stritolato dalle sanzioni ed è crollato sotto l'attacco americano del 2003. La Siria è un altro esempio sanguinosissimo di cos'è il fallimento di un regime baathista, e anche in questi paesi si è avvenuto questo bilancio. L'eredità è pesante, ma oggi qual è il problema? Oggi il problema è che questo Islam politico ha diviso e spaccato in qualche modo all'interno queste società. È già un fallimento in un certo senso. Knada, che vuol dire punto risveglio, in Tunisia non è stata capace di dare coesione politica al paese, e vediamo che all'interno stesso di questo partito ci sono anime diverse, una più tendente all'islamismo guidata da Rashid Ghannouchi e un'altra come quella del primo ministro Jebali più moderata. Però è stato proprio anche l'incapacità di dare un senso di coesione e di unità nazionale a questi paesi per cui oggi ci troviamo di fronte a questa situazione. Suad Sbai, su questo vorrei la sua opinione, perché poi quello che abbiamo letto in questi mesi, insomma, dopo la caduta dei regimi in Egitto, in Tunisia, qualche fonte di preoccupazione ce l'ha data, in particolare sulla Tunisia in questi giorni, che è un paese del quale ci occupiamo poco, ma generalmente però è veramente ad un passo. Mi ho letto di anche addirittura aggressioni a donne che non portavano il velo. In Egitto il quadro legislativo inizia ad avvicinarsi, anche se lentamente, no, a qualcosa di più vicino alla Sharia. Insomma, è un inverno islamico secondo lei? Buongiorno intanto, mi scuso anche della voce. Io mi complimento col vostro collega, veramente ha fatto un'analisi anche perfetta del mondo, di quello che sta succedendo oggi, è veramente perfetta e risponde a tutto. E guardi, l'uccisione dell'Aid è stata un'uccisione insomma terroristica, è chiaro a tutti, è un martire per la democrazia. È stato un altro ucciso il 5 novembre, nessuno ha parlato di lui perché eravamo troppo occupati, e Lotfi è stato ucciso il 5 novembre, massacrato, sono entrati in casa, l'hanno massacrato di botte. Purtroppo ecco, cioè, non è una bella situazione, noi l'abbiamo detto dal primo giorno dell'arrivo dei fratelli musulmani, che iniziava comunque una situazione grave, un Islam politico che non ha nulla a che vedere con l'Islam, ma è solo politico. Annada è tornata a governare in Tunisia, che è più del 70%, se non di più, della popolazione tunisina non la vuole. Hanno preso questo governo con la forza, alla fine aiutati anche dei nostri, insomma della Francia, anche della Germania e anche tutta l'Europa. È chiaro che oggi con l'uccisione del Belaid non sarà facile, anche se Jabali ha scelto il governo, ma Ghannouchi alla fine l'ha smentito, perciò c'è una spaccatura all'interno. chiarissimo. Mi perdoni, la interrompo perché tra l'altro abbiamo un audio pessimo del suo telefono, vediamo se riusciamo a correggerlo e poi, come dire, la voglio però più che sulla situazione tunisina, sulla situazione generale, insomma, verrei a toccare anche ovviamente le vicende egiziane, come si diceva in apertura, le vicende libiche, anche quello che sta succedendo. Non vorrei mettere tutto insieme, per carità, e fare un enorme pacchetto, però quello che sta succedendo, insomma, nell'area appena sotto, nell'area subsahariana, insomma, il Mali, per esempio. Allora, io giro la domanda che ho fatto su Adzbai a Khaled Fouad Alam, che ci ha raggiunto, sociologo del mondo musulmano, ex deputato della Margherita. Il suo ultimo libro, Avere 20 anni a Tunisi e al Cairo, per una lettura delle rivoluzioni arabe, o meglio, non so se è l'ultimo, ma è l'ultimo dedicato, sicuramente. Allora, Fouad Alam, ci dica lei qual è la sua lettura di quello che sta succedendo in questi paesi a, insomma, post quelle che abbiamo definito forse troppo frettolosamente primavere arabe. Beh, si assiste semplicemente a un'islamizzazione rampante della società attraverso due livelli. Il primo è l'entrata nella sfera istituzionale dei movimenti o partiti che si richiamano alla fratellanza islamica, con delle ali più radicali, salafisti ad esempio in Egitto, mentre sono presenti sul terreno in Tunisia ma non nell'istituzione, e poi dal punto di vista, direi, socioculturale, un'islamizzazione imposta alla società attraverso gruppi, attraverso comportamenti che fanno sì che, ad esempio nel caso tunisino, quest'ultimo anno abbiamo assistito a una recrudescenza della violenza sulla donna, e questo comporta due cose. Nel caso specifico della Tunisia e forse un po' meno dell'Egitto, è che la società tunisina appare completamente spaccata in due: da una parte le forze laiche e dall'altra parte le forze islamiste, che sono numerose, che hanno lavorato questi ultimi anni sul terreno e anche al di fuori del contesto tunisino stesso, perché gran parte della leadership tunisina si trovava in esilio in Europa o altrove, e questo ovviamente può provocare due scenari che sono abbastanza preoccupanti. Il primo ovviamente è quello di una guerra civile sul lungo andare, e l'altro ovviamente quello che io ho chiamato un islamonazionalismo, cioè vedere la maggior parte dei paesi dove si è svolta la primavera araba a una islamizzazione sul piano politico e nazionale, ecco, delle loro istituzioni, perché c'è un progetto politico di fondo che forse non bisogna leggere non tanto nel gruppo Ennahda ma soprattutto nei salafisti, che sono presenti ovunque nel mondo islamico, che è quello che di una nuova specie di panislamismo su delle basi ovviamente legate al ventunesimo secolo, e questo fa sì che si creerà nei prossimi mesi e anni forse una forte era di destabilizzazione sulla sponda sud del Mediterraneo, creando parecchi problemi all'Europa e anche al resto del mondo. Voglio iniziare a prendere le prime due telefonate, tra l'altro, insomma, di gente che conosce quei paesi. Mohamed ci chiama da Ravenna, buongiorno. Sì, buongiorno. Prego. Intanto grazie per l'opportunità. Insomma, volevo dire che queste cose qua stranissime che è successo in Tunisia, che noi non siamo mai abituati a queste cose qua, se mi ricordo bene, se vi ricordate anche voi, la Tunisia è un paese tranquillo. Lei è tunisino, quindi. Lei è mai queste cose. Ma lei è tunisino, Mohamed, quindi. Lei è tunisino, sì, quindi. Sì, sì. Prego. Sono tunisino che vivo in Italia da tanti anni, però seguo anche la Tunisia e conosco bene il mio paese, come conosco anche bene l'Italia, bene, per modo di dire, insomma. Comunque, la Tunisia non è un paese che è così, insomma, che c'è dell'integralismo, c'è di questi non so, infiltrazione detta dell'Islam, che sono pericolosi. Sì, dopo la rivoluzione sul contro Ben Ali è successo, perché poi il paese non è sotto controllo al 100%, e questa è una cosa evidente in tutto il mondo. La Tunisia non è proprio quel paese che ha molto potere di poter controllare tutti i confini. Comunque, qualcosa potrebbe succedere, cioè potrebbe essere di questo lato qua. La cosa che è successa in Tunisia è una cosa, secondo me, è una cosa esterna, non interna, perché il popolo tunisino è un popolo pacifico, è un popolo che ama la vita e ama vivere, e tutte le opinioni che dicono esternamente sono opinioni che non conoscono la Tunisia. Grazie Mohamed per la sua valutazione, poi interrogheremo anche su questo i nostri ospiti e anche Awad che ci chiama da Roma, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie per l'opportunità che mi avete dato. Senta, io volevo soltanto intervenire in generale sulla primavera araba. Prego, prego, volentieri, volentieri. Lei da dove viene? Io sono da 13 anni che sto qua in Italia, a Roma, e sono d'origine sudanese. Sì, prego. Ok, io sentivo tutte le interventi che l'hanno fatte, però comunque scusate per la mia lingua un pochino... Cioè comunque se capisci... non si preoccupi, va benissimo, prego, prego. Volevo soltanto intervenire perché tutti le rivoluzioni, come si chiamano, la primavera araba, hanno utilizzato l'Islam per scopi politici, punto. Questo che volevo dire. E quindi? E quindi non ci azzecca niente fratelli musulmani o quell'altro cioè hanno utilizzato soltanto l'Islam per andare al governo a fare quello, perché voi non sapete, cioè non vivete in quei paesi. In quei paesi ci sta una povertà enorme, cioè c'è una povertà veramente altissima in tutti i paesi arabi. E lei dice che queste organizzazioni hanno sfruttato la disponibilità di denaro per arrivare al potere sostanzialmente. Certamente questo, è successo questo. E poi il nome dell'Islam, il problema è il nome dell'Islam, fratelli musulmani, sunniti, sciiti, quelli, quell'altri, hanno sfruttato tutte queste cose. L'intervento di una signora che è precedente, però non si sentiva proprio l'audio, è giusto quell'intervento lì. Grazie Awad, allora ricoinvolgo Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore a Tunisi, sulle due letture dei nostri ascoltatori, insomma, che come hai sentito fanno parte di insomma, uno tunisino, Mohamed, e Awad appunto, che ci chiama invece dal Sudan, quindi da un'altra parte insomma, alla quale non sono mancate le tensioni, per così dire. Alberto. Ma hanno fatto degli interventi che hanno dei fondi di verità molto concreti. Parliamo per esempio della Tunisia, riguardo al problema economico e sociale. Questo è un paese dove nei giovani sotto i 30 anni, 7 su 10 tra diplomati e laureati sono disoccupati. Questo significa che c'è una frustrazione enorme della gioventù in questi paesi. La disoccupazione delle fasce interne, che sono le più povere, perché spesso noi vediamo la vetrina della costa, quella da cartolina della Tunisia, ma nell'interno la disoccupazione è altissima a tutti i livelli, si parla del 40-50%. È chiaro che in situazioni di questo genere, di grave disgregazione economica e sociale, è facile che i gruppi salafiti facciano proseliti, che ideologie importate, sostenute anche da finanziamenti esterni, possano radunare gruppi e indirizzarli verso un islamismo radicale. Qui in Tunisia sono stati esempi eclatanti in questi mesi, in queste settimane. C'era un imam che veniva dal Golfo, Auladi, che è andato in giro facendosi fotografare con bambine velate di 4 anni, ci sono stati la moltiplicazione delle scuole coraniche con i finanziamenti che venivano dal Golfo, e non sono questi fenomeni nuovi, lo ripeto, si erano già manifestati 20 o 30 anni fa. Sul fatto poi della società più o meno violenta, bene, certamente la Tunisia non è mai stata una società violentissima rispetto alle altre, ha avuto un periodo di dittatura molto duro, una dittatura, ricordiamolo, non di stampo militare, quella di Ben Ali, ma di tipo poliziesco. Questo ha influito molto, ma certo ci sono dei gesti, io ne ho visto uno ieri che mi ha francamente quasi commosso, perché ero in Avenue Bourguiba, c'era l'aria densa di lacrimogeni, e a un certo punto una mano dalla grata di una saracinesca di un negozio ha allungato una salvietta umida per proteggersi dai lacrimogeni. Questi sono gesti che fanno capire, anche se evidentemente individuali e singoli, che questo paese ha una dose di violenza, ma anche una dose, come dire, di tenerezza e di civiltà non comune. 9 in punto. Ed eccoci di nuovo, saluto Lappo Pistelli, responsabile esteri e relazioni internazionali del Partito Democratico. Buongiorno Pistelli. Buongiorno a voi. Autore tra l'altro, anche lui, di un libro recente proprio su questi temi, Il nuovo sogno arabo dopo le rivoluzioni, un ebook soltanto se non sbaglio, Pistelli. Sì, un ebook di Feltrinelli, doveva essere a tambur battente sugli eventi e quindi i byte vanno meglio della carta. Che lettura dà lei anche alla luce di quello che è successo e che sta succedendo in Tunisia, ma in generale sulla situazione di questi paesi? Noi abbiamo aperto la trasmissione anche provocatoriamente, ma nemmeno troppo, insomma, perché ci sono molti che sostengono questa tesi. Ci aspettavamo le primavere arabe, ci ritroviamo nell'inverno islamico. Che lettura dà lei e come si pone di fronte a una valutazione di questo genere? Era già uscita un anno dopo dall'Economist, ma io non la condivido interamente. Nel senso, per queste ragioni. La prima ragione è che, come dire, è inutile immaginarsi che paesi che hanno fatto 7 secoli di califfato, 30 anni di colonialismo e 30 anni di autocrazia diventino Westminster nell'arco di 6 mesi. Non funziona così. In Egitto io acchiappai questa frase che riportavo anche nel libro, insomma le rivoluzioni si possono pure fare con un tweet, ma le transizioni alla democrazia no. È un processo lungo ed è un processo lungo che soffrirà e sta soffrendo penose contraddizioni, ma che per qualche aspetto non ha alternativa. Seconda questione, è vero che le rivoluzioni partono come quasi sempre, come fenomeni giovanili, secolari, tecnologicamente sofisticati, eccetera, ma le elezioni le hanno vinte i partiti islamici e le hanno vinte perché c'è un radicamento molto profondo che non può essere estirpato immaginando che il mondo arabo sia quello che noi vediamo da qui. Il mondo arabo è quello che è al Cairo, a Tunisi, eccetera. E con un terzo fattore che secondo me è forse la cosa più importante anche di questi giorni tremendi, non soltanto a Tunisi ma al Cairo, e cioè nel mondo islamico, nella politica islamica è in atto un drammatico braccio di ferro fra una componente che non ha vinto le elezioni, anzi l'ha persa, quella salafita, che rifiuta la democrazia, che vuole praticare sharia e introduzione di uno Stato islamico, e che cerca di rovesciare i risultati elettorali che li hanno visti perdenti con la violenza. E abbiamo dentro la fratellanza musulmana, è nata in Tunisia, altri nomi a seconda dei paesi, un braccio di ferro fra correnti, alcune delle quali pensano che invece si debba rimanere, come dire, attenti al mandato elettorale ricevuto, democratico, e altre che strizzano l'occhio a questa corrente salafita. E a seconda di come finirà questo braccio di ferro, finiranno le transizioni arabe. Quindi, secondo me, mettersi un po', soprattutto da italiani, sulla sponda del fiume a guardare come se fosse una roba che un film, il cinema, è un gigantesco errore. Cioè, per noi, se l'Egitto, anziché la Tunisia, anziché la Libia, franano, altro che i barconi, il tema è che frana un pezzo di mondo, quindi dobbiamo essere interessati ad aiutare la parte secolare, ma anche la parte islamica moderata che la democrazia crede, a vincere questo braccio di ferro. Suad Sbai, la richiamo in causa, speriamo che insomma il telefono funzioni un po' meglio, perché insomma io la sentivo abbastanza bene da qua, però poi in radio la percezione da fuori è diversa, insomma, come esce il segnale è lievemente diverso. Lei che lettura dà di tutto questo? Cioè, sono questioni che stiamo trascurando, la mia impressione è questa. Pronto? Un po' da ridere, il signor Pistelli mi ha attaccato in televisione qualche mese fa dicendo che i fratelli musulmani non c'erano nella primavera araba. Mi viene da ridere, noi dal primo giorno sapevamo che questi fratelli musulmani guidati dall'Arabia Saudita, guidati anche la wahabizzazione del mondo arabo, che hanno deciso di wahabizzare il mondo arabo in modo chiaro, aiutati da tutti, anche dall'Occidente. Oggi che mi vengono fanno un'analisi sul mondo arabo, sul il colonialismo, insomma, mi fanno ridere perché non hanno visto gli ultimi 50 anni del mondo arabo, vadano a studiare un pochino che cos'è, o anche un viaggetto in questi paesi arabi, non solo accordi solo economici, mi viene veramente da ridere. Qui è stata un'occupazione dei fratelli musulmani che vogliono portare la Sharia nei paesi arabi, dicono che il Tunisia non è un paese democratico, ma quale paese arabo è democratico? Ditemi, perché l'Arabia Saudita è un paese democratico, il Kuwait è un paese democratico, il Qatar è un paese democratico, mi fanno veramente ridere, è che chi ha più soldi, allora noi stiamo lì, siamo brava gente, portiamo questi, faranno una politica nuova, non sanno che questi mondi, nel senso mondo sia marocchino, tunisino, algerino, cioè, vivono con Twitter, vivono con internet, sono dei blogger, quasi alla fine occidentali, e non li si può importare un dei fratelli musulmani a occupare tutti questi paesi e a mettere i loro amici come Gannucci, come Mursi e come altri. No, non è una primavera araba voluta, una primavera araba disegnata, politica, sciaritica, che non rimane solo nel Nord Africa, ma arriverà anche nel nostro paese. Già ci sono alcuni personaggi dei fratelli musulmani che lavorano su questo. Questo è un tema, no, questo, la sua lettura è chiarissima. Questo è un tema interessante perché è uscito qualche servizio sui giornali di, insomma, qualche settimana fa, proprio sull'inizio della penetrazione dei fratelli musulmani nel nostro paese. Voglio sentire altri due ascoltatori e vedo, insomma, che oggi ci stanno chiamando, ne sono contento, insomma, persone che se ne intendono perché vengono da quei luoghi. Ali ci chiama da Ancona, buongiorno. Buongiorno a lei, grazie per l'opportunità. Prego. Mi senti? Perfettamente, vada. Allora, io sono un cittadino tunisino da circa 25 anni che sono in Italia e praticamente vorrei dare un'analisi generale sulla primavera araba e magari dopo qualche parola sul sì, specifico tunisino. Allora, la primavera araba, secondo me, non è il paese arabo che è stata la primavera araba, non sono preparati per la democrazia. Perché? Perché le dittature hanno le radici profonde, da 30-40 anni che sono lì, che comandano, che hanno fatto tutto quello che hanno voluto fare. Ok, adesso io parlo della Tunisia. La Tunisia è un paese che ha fatto questa rivoluzione, roba varia, e dopo arriva Nada, ha promesso questa. Io la prima volta in 43 anni che do il voto e l'ho dato a Nada. Purtroppo, dopo un anno e due mesi, mi sono pentito amaramente a darla il voto, perché prima ho pensato che un partito islamico poteva fare cosa meglio di quell'altro. Mi sono trovato che un partito che voleva attaccarsi al potere, che vuole distruggere il paese, io gli auguro che la prossima volta, perché la prossima volta che perde le elezioni, sì, verrà l'elezione, però purtroppo se perde l'elezione succederà un casino, perché dopo loro alzano la testa e comincia, non so, spero, mi auguro di... Grazie, grazie Ali. Sentiamo anche Hussein, se non sbaglio, che ci chiama da Prato, buongiorno. Buongiorno, sì. Io volevo intervenire su questo fatto qua. Io sono del Marocco, Marocco ha approfittato di questi interventi, il re del Marocco ha fatto cambiamento dello statuto, ha fatto tante cose belle, sì. Però la nota che io voglio fare è che la popolazione di tutti i paesi arabi non è in grado di prendere la democrazia, hanno preso la democrazia di un colpo, praticamente non sanno i loro limiti quali sono. Per esempio, il ministro della giustizia del Marocco ha fatto un decreto che quelli che fanno sciopero non si paga il sciopero, come qua in Italia, in Francia, in Germania. Hanno fatto altri scioperi e hanno detto no, lasciamo il sciopero, però la giornata va pagata. Allora questa non è una democrazia, un governo non è dittatore che c'è al Marocco, che governa a modino, l'hanno votato, però la popolazione allunga la mano in più ancora. E quello che anche in Tunisia, anche in Egitto, ora non gli fa bene nulla. Perché ti hai votato un presidente, lascialo lavorare 5 anni, poi dopo se non ha fatto nulla. Grazie Hussein, chiarissimo. Mi sembrano delle sollecitazioni perfette a questo punto per Khaled Fouad Alam, lo ricordiamo perché l'abbiamo presentato solo all'inizio, sociologo del mondo musulmano ed ex deputato della Margherita, tra l'altro. Dicono due ascoltatori che tra l'altro vengono da quei paesi, insomma, uno marocchino e uno tunisino, dice insomma, forse non siamo pronti per la democrazia. Ma io non so se esiste questa visione culturalista della democrazia, mi lascia molto perplessa. Mi sento soltanto di dire che in realtà non è vero, perché l'assassinio del leader tunisino dimostra in realtà che c'è una battaglia, ci sono delle passioni democratiche nel mondo islamico, perché c'è chi afferma che c'è compatibilità fra Islam e democrazia e che dice l'esatto contrario. È una crisi enorme quello che sta attraversando il mondo arabo e islamico in generale, che è la crisi dell'Islam contemporaneo, dove si pongono le questioni centrali sul rapporto fra norma religiosa, autonomia del potere temporale e autonomia del potere spirituale. Finché non si realizza veramente la frontiera fra questi due, il mondo islamico è condannato a queste serie di turbulenze e anche a queste serie di guerre. Poi sui fratelli musulmani non bisogna dimenticare che sono presenti negli anni 30, cioè non è un vecchio movimento, perciò la conoscenza del terreno, le loro finanze internazionali è tale che è ovvio che loro hanno praticamente quasi tutto il controllo del territorio, ecco. E su questo l'Occidente è stato molto leggero di fronte all'analisi di questo fenomeno. Ecco, il mondo islamico si apre di fronte al XXI secolo, di fronte a una questione centrale, la democrazia, che non è soltanto alternanza del potere politico, ma significa il rispetto delle minoranze religiose, la libertà di religione, dell'eguaglianza fra uomini e donne. Su questo ci sono delle battaglie che sono molto dure e molto violente. Ecco, questo significa che ovviamente che c'è una tesa democratica, ma dove si spinge il mondo musulmano nessuno lo sa. Sono più propenso a dire che si va verso un'onda in un certo senso di un'islamizzazione rampante in tutto il mondo islamico, che però creerà moltissimi problemi, perché l'esempio tunisino e un po' l'esempio egiziano dimostrano che la società, se non è spaccata in due, ma non tutti hanno la stessa visione dell'Islam, e questo è il grande problema che si pone non soltanto a loro, ma anche a noi. 9 in punto. Alfredo ci chiama da Modena, buongiorno. Buongiorno. Prego. Io intanto ringrazio dell'occasione datami e confermo quanto lei in premessa autorevolmente ha detto, che è una carenza della campagna elettorale non aver messo in primo piano questo fattore di politica estera. Insomma, qui si bruciano chiese in Nigeria, si attendono cristiani in Egitto, si uccidono preti in Turchia, si rapiscono occidentali fino in Mali, no? Come lei giustamente ha ricordato il Mali, quindi tante sociologie sono da trascurare. Insomma, qui ci sono problemi più concreti di tutela dei nostri concittadini occidentali fuori, e in Italia questi vogliono anche, da ultimo c'è stata una trasmissione sempre su Radio 24 sulla satira, questi vogliono uccidere la nostra satira senza nemmeno lasciare la libertà nostra occidentale di fare satira su loro, ma loro, guardiamoci bene, la vogliono fare su di noi, sui cristiani, sul Papa, e questo è un fattore fondamentale, sia fuori dalle nostre frontiere, sia che dentro, loro non si vogliono integrare. E il problema della cittadinanza, e qui chiudo, che tanto si parla, no? Cittadinanza e gli immigrati, se non fosse per loro che non si vogliono integrare, secondo me già si sarebbe data prima dei 18 anni, come adesso è la legge. Alfredo, grazie, ha messo forse un po' troppe cose insieme rispetto a quelli che sono i temi che stiamo affrontando. Io tornerei da Lapo Pistelli, lo ricordo, responsabile esteri e relazioni internazionali del Partito Democratico, perché la vorrei anche far rispondere a quello che diceva, tanto a quello che dice Alfredo, che dice insomma di queste cose francamente in campagna elettorale dovremmo occuparci un po' di più, anche se è vero che poi insomma le questioni fiscali attraggono moltissimo, e dall'altra parte a Suad Sbai che diceva insomma ma ve ne occupate solamente adesso. Prego Pistelli. Ma guardi, se fosse tempo rispondevo leggere a tutto. Sul tema delle campagne elettorali sfonda un uscio aperto, cioè se siamo tutti coloro che si occupano di temi di merito, che sia il lavoro, che sia la politica estera, che sia l'ambiente, sono tutti a lamentarci del fatto che la comunicazione elettorale è soltanto Monti ha detto, Bersani ha replicato, Berlusconi ha promesso, e ogni volta è così. Credo ci sia un po' di pigrizia da parte dell'informazione, un po' di pigrizia da parte nostra. Ma come? Eccoci qua, non... come pigrizia da parte dell'informazione? Eccoci no, qua. No, mica lo dico a voi, ma voglio dire, li abbiamo guardati i contenitori televisivi sera. Sì. Cioè si parla sempre delle stesse robe, e se non vince con chi ti allei, cioè non si esce mai al tema, mai dal tema delle alleanze e della stabilità. Al massimo un po' di Europa, ma poca roba. Io sono d'accordo completamente con Alfredo da questo punto di vista e ne soffro. Dal punto di vista invece delle altre considerazioni che venivano svolte, io sono interamente d'accordo con Khaled Fouad Allam, nel senso che noi possiamo pure rimettere sugli steccati altrimenti e ritornare allo scontro di civiltà come se potessimo farlo, quindi non so se poi Suad Bai ha smesso di ridere nel frattempo, ma sono convinto che è una scelta totalmente sbagliata e perdente. L'Islam ha davanti a sé la grande partita del cosa fare dello strumento democratico. Io sono felice che dopo 30 anni, dopo che le democratizzazioni hanno coinvolto negli anni 80 l'America Latina, negli anni 90 l'Europa centrale orientale, questa domanda oggi interpelli anche il mondo arabo. È chiaro che essendo un mondo non abituato a cimentarsi con queste cose, non abituato a cimentarsi con un tema evocato nell'ultima domanda, la libertà della cultura rispetto all'influenza delle istituzioni. Perché si attaccano i vignettisti? Non soltanto per cecità o integralismo, ma perché nella storia istituzionale del mondo arabo non c'è l'idea che la cultura possa avere una sua libertà di espressione se non diretta dal governo che presiede agli affari pubblici, per cui si pensa sempre sia colpa del governo che ha dato la libertà di. Sono differenze fondamentali rispetto alle quali possiamo o rialimentare un bel muro dicendo non sono adatti strutturalmente, è meglio che ci sia un bello autocrate che li mette tutti in galera e noi siamo più tranquilli. E mi fa riflettere, vorrei riflettessero anche gli ascoltatori, la circostanza che molti di coloro che hanno lasciato quei paesi sono quelli che oggi a distanza esprimono i giudizi più duri. Oppure possiamo ingaggiarli vuol dire tentare una trasformazione, perché se non tentiamo la trasformazione e quei paesi collassano, voglio dire, non è che la situazione sarà migliore né per loro né per noi. È un discorso di buonsenso prima ancora che di idealità, di buonsenso. È chiaro che questi governi hanno vinto delle elezioni, ma sono oggi sfidati da un'emergenza economica che ha un passo molto più veloce della loro capacità di reagire. È chiaro che un conto è scrivere una Costituzione, buona o cattiva che sia, un conto poi dopo è implementare ciò che ci sarà scritto in quelle Costituzioni, garantendo effettivamente donne, diritti umani e tutto quello che diciamo. Un conto è pensare che ci sono delle elite giovani spesso nelle grandi città, e un conto è pensare, come diceva Khaled, che invece la fratellanza musulmana è radicata nella parte rurale profonda di quei paesi, nei piccoli villaggi, nelle moschee, ha quindi una rete organizzativa e sociale molto più forte dei nuovi partiti secolari. Questa è la democrazia bellezza, cioè è quello con il quale dobbiamo cimentarsi. Quanto al tema del mondo arabo, non l'abbiamo detto prima per questione di tempo, ma è del tutto evidente, nonostante l'onorevole Sbai si sia premurato di ricordarcelo, che questo fenomeno ha investito prevalentemente il Maghreb, con qualche esclusione. Il Marocco ha tendenzialmente cercato di guidare prima di essere sfidato dalla piazza in modo forte, ha messo a ferro e fuoco il Mashrek, Siria, Libano, spillover in Libano, eccetera, per ragioni che non c'è il tempo, diciamo, di affrontare. È passato sostanzialmente indisturbato nel Golfo, anche lì per una ragione, se si vuole, storica. Erano ex protettorati britannici, sono paesi petroliferi, monarchie nelle quali la monarchia compra preventivamente le ragioni del dissenso, dicendo non ti do tassazione, ti investo di dollari, ma tu per favore non chiedere rappresentanza politica. Se però andiamo un po' nel dettaglio, c'è grande spazio per la politica per investire su queste cose. Mettersi a fare una fatwa occidentale contro l'irriformabilità del mondo arabo, secondo me è una scelta miope e perdente. Chiarissima la sua posizione, Pistelli. Un'ultima telefonata, la prego di essere brevissima. Balkis, se non erro, ci chiama da Padova, buongiorno. Sì, la chiamo da Padova, buongiorno. Niente, io sono franco-tunisina. e volevo testimoniare della situazione che c'è attualmente in Tunisia. C'è un sentimento di insicurezza quotidiano, praticamente la polizia praticamente inesistente o ha paura anche di intervenire. Il problema, la cosa che mi preoccupa soprattutto è nelle università come questi giovani studenti si possono lasciare fare un lavaggio di cervello quando sono più che diplomati. Questo mi fa la paura, ci dà la paura. Grazie Balkis. Abbiamo ancora un minuto per chiudere con una testimonianza di Alberto Negri. Veramente un minuto, Alberto, inviato del Sole 24 Ore a Tunisi. Ma io provo a fare una sintesi. Insomma, siamo davanti a una battaglia interna per la democrazia, per l'affermazione al potere in questi paesi, ma che è anche una battaglia internazionale. Non dimentichiamoci che cosa avevamo promesso un paio di anni fa a Deauville per accompagnare la transizione araba, 20 miliardi di dollari che dovevano appunto in qualche modo favorire il terreno per questa transizione, non ne sono arrivati nemmeno due in tutto il Maghreb. Questo ci dice già tutto. E poi vorrei dire una parola sulla questione della cittadinanza. Qui bisogna un po' allargare gli orizzonti. La cittadinanza anche degli immigrati in Italia si forma proprio qui, dentro a questi paesi, in queste battaglie che si stanno disputando oggi. E non dimentichiamo neppure che siamo tutti nello stesso spazio comune mediterraneo, apparteniamo allo stesso mondo e ce ne dobbiamo occupare. Grazie ad Alberto Negri, a Suad Sbai, Khaled Fuad Allam, Lapo Pistelli per essere stato con noi, per essere stati con noi, e grazie a Franco Piantanida in assistenza, Alessandro Marcotulli in redazione, Filippo Aureggi in regia, grazie alle ragazze del Centralino come sempre per l'assistenza. Noi ci sentiamo, se volete, domani con Voto Antonio, una trasmissione dedicata alla rete e alla politica, internet e alla politica. Altrimenti, se non vorrete, ci sentiamo lunedì con 9 in punto.